English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera vi portiamo in Danimarca. Ovviamente parliamo in inglese, anche perché non so come sei messa tu, Giulia, col danese. Io così non tanto. Allora, sentiremo parlare in inglese ovviamente una straordinaria regista danese. Il suo ultimo film, Heaven in a Better World, è stato presentato al Festival di Roma, dove ha preso il premio come film più amato dal pubblico. Sarà nelle sale italiane la prossima settimana, ma lei, Susanne Bier, è arrivata questa settimana a Milano per presentarlo. Abbiamo incontrato questa regista, che sarà la candidata danese all'Oscar, per parlare del suo film, ma non solo, anche per parlare un po' di questo suo mondo che ha costruito film dopo film, un mondo che ha delle caratteristiche molto particolari. Ce le ha spiegate lei stessa. I think many of my films deal with moral challenges, but they also deal with our ability to withstand some kind of moral challenge. And I think for the screenwriter, Mr. Jensen, and myself, it's something that we often talk about, like, what if, like, what if we'd been on Titanic? And it's a kind of, you know, you can always talk about where it comes from, you know, whether it comes from being Jewish, whether it comes from coming from a religious family, not being religious, but still dealing with. But there's also like a clear, I think all my movies has a certain message of forgiveness and a certain message of hope, or hope through forgiveness. L'accento danese di Susanne Bier, ma un inglese perfettamente comprensibile, e questo suo davvero universo ogni tanto si trova descritto come bieresque nelle recensioni. My films deal with moral challenges, to deal with something è avere a che fare con essere, trattare di, naturalmente può essere anche una persona, no? Sappiamo un deal è un accordo, New Deal era quello di Roosevelt, il nuovo modo di fare, quindi comunque un modo, appunto, una sfida in questo caso con queste sfide morali che lei vuole sempre raccontare. E forse dice anche our ability to withstand some kind of moral challenge, che vuol dire, può voler dire due cose, può voler dire o sopportare delle sfide morali oppure addirittura resistere a queste sfide morali, quindi in un certo senso possiamo pensare sottrarsi a queste scelte. E ci sono anche delle domande fondamentali che spesso non ci facciamo, ma che lei si fa, forse perché dice magari è la mia estrazione, la mia educazione, chissà. E questo è molto divertente, io sono sicura che tutti l'abbiamo fatto questo gioco, what if? E se, cioè, e se I'd been on the Titanic, e se io fossi stato un passeggero del Titanic, per esempio, mettiamo, aiutavo quelli di terza classe, correvo anch'io alle scialuppe, possiamo fare questo giochino, no? E dire, ma noi come ci saremmo comportati, noi che possiamo giudicare adesso? E naturalmente dice, you can also joke about where it comes from, questa cosa di chiedersi what if, chiediamoci da dove viene, per esempio, it comes from being Jewish, per esempio, può darsi, lei dice, che venga dal fatto di avere una cultura ebraica, di essere ebrea, o chissà, da altre ragioni, da altre formazioni, da altri percorsi culturali. E condensa anche un po' il messaggio che viene dai suoi film. Ed è molto bello perché dice it's a message of forgiveness, forgive naturalmente vuol dire perdonare, quindi un messaggio di perdono, of hope, di speranza, o ancora meglio, of hope through forgiveness, cioè una speranza raggiunta attraverso il perdono come appunto forza risanatrice che ci fa forse sperare di essere tutti più buoni. Regista, donna, quello del regista purtroppo è un mestiere ancora molto maschile, nonostante Susanne Bier venga dal nord Europa. L'abbiamo chiesto secondo lei perché. In our society most very demanding jobs is still run by men. So it's not just the movie industry, it's everywhere. If you reach a certain point in leadership, very, very quickly there are very few women. So I think I am certain that it's a question about making it possible for younger women to not have to make a choice between children, between family and career. And I think I think if we really want to change something, we need to, on a very deep level, go and change that whole concept of how you do those two things. Gli stessi problemi dappertutto, inteso come senso geografico, ma anche come mondo al quale si appartiene. Il mondo del cinema non è diverso da altri universi, dice Suzanne Bier. Sì, qui c'è subito un false friend. Ricordatevi che demanding non ha niente a che vedere col domandare nel senso in cui lo intendiamo noi, ma è qualcosa che richiede uno sforzo. Quindi un demanding job è un lavoro difficile, un lavoro che pretende molto impegno. Ecco, tutti questi lavori sono still run by men, to be run. Forse un inglese di madrelingua non avrebbe usato questa espressione, ma è chiarissima lo stesso. Questi lavori sono run by men, sono gestiti da uomini, e non è solo the movie industry, cioè l'industria cinematografica, dove sappiamo le registe donne si contano ancora sulla punta delle dita. Cosa succede? Che puoi raggiungere alcuni livelli, lei lo ammette, però poi succede sempre la stessa cosa. E poi tutto un tratto, anche qui lo dice in un modo che forse un inglese non avrebbe usato, però gli dice, ecco, when you reach a certain point in leadership, quindi quando arrivi a quel punto della leadership, a quel punto della scala gerarchica, potremmo dire, a tutto un tratto, very very quickly, there are very few women. Tutto un tratto vedi che i gradini poi sono molto velocemente, sì, le donne spariscono da questi gradini, ed there are very few women, e ci sono gli uomini. Qualcosa bisogna fare, lo dice anche lei. Sì, lo guarda al futuro, perché dice it's a question of making it possible for younger women, quindi dalla nostra generazione sostanzialmente per spacciata, e però per le donne più giovani lo scopo è not to have to make a choice, cioè fare in modo che non si debba scegliere tra children, dice prima, poi si corregge, dice family and career, cioè la famosa appunto scelta, occuparsi della famiglia, occuparsi del proprio lavoro, della propria ambizione lavorativa. Go and change, bisogna cambiare queste cose a un livello profondo, non è un cambiamento facile. Sì, very deep level, qui sarebbe bello forse appunto magari parlare più a lungo con lei, chiederle cosa intende, ma probabilmente ha ragione, cioè non si tratta tanto di a un livello superficiale cambiare le leggi, ma change the whole concepts, quindi proprio cambiare il modo in cui how you do those two things, the two things naturalmente a family and career, quindi forse ci devono essere dei cambiamenti proprio, e quante di noi sanno che insomma è difficile far cambiare la testa soprattutto agli uomini, no? Nel capire come possono gestire o la famiglia o l'impegno familiare o quello lavorativo. E devono aiutare tutte le donne a farlo, le donne di successo. Suzanne Bier, lo abbiamo detto poco fa, candidata danese all'Oscar per questo ultimo film che sta per uscire in Italia. Beh, insomma, una donna di successo, ma cos'è per lei il successo? Look, everybody wants to succeed in what they're doing. So of course it's important. I mean, I would be lying if I say it would be otherwise. But I actually also think that the stories I'm telling, they are important to me, and I think they have a real substance, and therefore I would like them to have an audience. I don't believe that you can change the world through movies, but I do believe that you can actually make. You can give people an experience and you can make people think about certain things in their life. And that's why I would like to make movies that can do that, and you can only do that if you also entertain an audience. So I think the challenge for me is to get that balance of making something with substance which is also entertaining. Beh, sincera, il successo è importante, fa piacere a tutti e lo dice subito. Everybody wants to succeed. Succeed naturalmente è avere successo, e dice of course it's important, succeed in what you're doing, qualsiasi cosa tu faccia, quindi to succeed in something, avere successo in qualcosa, come diciamo anche noi, e dice I would be lying if I say it would be otherwise. E qui c'è una piccola sgrammaticatura, ma appunto lo sappiamo, è danese e comunque parla benissimo l'inglese, in teoria avrebbe dovuto dire I would be lying if I said it would be otherwise, avrebbe dovuto usare il passato e invece usa il presente, come forse traducendo forse dalla sua lingua, purtroppo non so il danese. Ah, nemmeno io, ahimè. Allora, importante il successo, però actually, naturalmente qui notiamo l'uso di important to me, in italiano diciamo importante for me. Si capisce, per carità, però se uno vuole essere corretto deve dire important to me, quindi è importante a me. The stories I am telling, cioè raccontare queste storie, questo è quello che la rende, le dà l'impressione di essere successful. Però, e poi lo ammette, bisogna che ci sia un audience, perché sennò insomma non può raccontare queste storie allo specchio. E quindi, come il compromesso che bisogna raggiungere tra carriera e famiglia, bisognerebbe raggiungere un punto di equilibrio tra tutte e due, lei dice bisogna raggiungere un altro punto di equilibrio tra tra quali elementi? Quindi the challenge, di nuovo, non moral challenge come diceva sopra, ma la challenge, proprio la sfida per lei come regista, è to get that balance. To get, sappiamo, uno dei verbi più versatili che esistono, in questo senso significa ottenere, quindi to get that balance between of making something with substance, qualcosa di sostanzioso, which is also entertaining, che però insomma ci fa ridere, ci intrattiene. Insomma, in questo modo you entertain an audience, ma fai sì anche che la gente si faccia delle domande ancora. You can make people think about certain things in their life, e questo è quello che lei vorrebbe fare. Ecco, magari lo si fa col sorriso sulle labbra, magari sganasciandosi dalle risate, però lo stesso si riflette un pochino, si esce dal film con una riflessione in più e lei si sente successful. O magari con il fazzoletto in mano, le lacrimucce, come appunto in Heaven in a Better World di Susanne Bier, che uscirà la prossima settimana in Italia. Non l'abbiamo incontrata in questi giorni a Milano, ma si conclude qui il nostro tempo radiofonico anche per questa puntata. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Un saluto e al prossimo English 24.